sta vita da centro non mi si addice. Mi sento come il cazzo di uno che non scopa la moglie infelice. Vorrei poter esplodere, schizzare fuori per svuotarmi totalmente di rimpianti e malumori. Sono dentro una tempesta in fiamme, spegni tutto. Che non sono né coyote né l'uccello, sono un rutto, ma principalmente brutto. Un po' ubriaco e sempre in luto, amico, la sottile linea tra balordo a fare a butto. Vuoi sfondare e andare? Ah, tu sì che vale. Qui è Natale ormai, mancano 3 giorni e siamo presi male. Io voglio fare un video a disco che sponga nel caminetto. E se sta vita va puttane, va tranquillo, aspetto. Tutti quelle stesse paranoie di sempre, in testa un serpente. Io i coglioni gonfio, mi fa male un dente. Forse arriva a malapena i 30 e mando a fare in culo ogni cornuto che ogni volta si accontenta. Prendo tutto un po' sul serio, cazzo quanto potenziale spreco. È come dissare, ecco. Vorrei tornare ai tempi della dopa, ma adesso il regno dell'hip hop è in mano a un ragazzino che non scopa. Siamo stanchi di chi non ci offre mai del vino, di chi rosica per primo, chi si vende in cambio di un pompino. Siamo stanchi di chi giudica senza sapere quante bufale continui a bere, fammi il piacere. Siamo stanchi di chi non ci offre mai del vino, di chi rosica per primo, chi si vende in cambio di un pompino. Siamo stanchi di chi giudica senza sapere quante bufale continui a bere, fammi il piacere. Stanco di questi gangsta che girano con le band, clap your hands, menati i bambini che gentleman. Vi trovo faccia a faccia, colpito cutto no can. Trovate i cazzi dei miei omi che qui te omi fanno una gangbang. Stanco di tutto, di certe voci, di avere soci, sti froci che non li nutri e muoiono tamagogi. Siamo stanchi di sentirvi sparlare per poi leccare le palle al nemico, per farvi considerare male male soggetti da sotterrare. Sotto sotto angeli e poi sottoni da non sottovalutare. Sotto costo il posto dove vai a lavorare. Tu giudichi me, la persona è giusta che in testa ti potrebbe pisciare. Stanco di chi guadagna ma non suda, non aiuta la società, ma hanno tutto sti brutti figli di puta. Resto calmo tipo il Buddha, io dentro questo calice mi bevo i traditori tipo sangue di Giuda. Non incanta la vostra sigla, rapper coglioni come briga. Siete tipo un buono liga, più brutti di Lapo dopo una riga. C'ha palle il cazzo tra le gambe la vostra diva. Meglio così, visto che sti MC si ritrovano una fica. Siamo stanchi di chi non ci offre mai del vino, di chi rosica per primo, chi si vende in cambio di un pompino. Siamo stanchi di chi giudica senza sapere quante bufale continui a bere, fammi il piacere. Siamo stanchi di chi non ci offre mai del vino, di chi rosica per primo, chi si vende in cambio di un pompino. Siamo stanchi di chi giudica senza sapere quante bufale continui a bere, fammi il piacere. Dai, fammi il piacere. Dai, fammi il piacere. Dai, fammi il piacere. Oh, e fammi un cazzo di piacere. Dai, fammi il piacere. Dai. Dai, io.